Prima, quando ho sentito questa cosa, il primo pensiero è andato a Cagliari, hanno risolto il problema, no? Sì. Abbiamo tolto lo stadio e quindi no, non possono più fumare. Niente, io penso che come tutte le cose la verità sia nella regolamentazione, non nella proibizione. Sì. Poi se ci sono delle regole che vanno cambiate e che cambieranno, ci adegueremo, anche perché io fumo, ma come me fumano altri l'80% dei miei colleghi, anche se fumano di nascosto, e quindi continueremo a farlo di nascosto. Sì, continueremo a farlo di nascosto e così faranno anche io credo, gli spettatori sempre più rari, quindi sempre più beccabili negli stadi italiani. No, questo dico io, avendo noi gli stadi più vecchi, penso, del mondo, sicuramente europei, sicuramente. E questo penso che sarebbe giusto, magari ripare gli stadi e fare un'area dove è giusto che anche uno che piace fumare, come succede negli aeroporti, come certo, succede in qualsiasi altra situazione. Certo.